ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Parlavo con i contadini e ne guardavo i visi e le forme. Piccoli, neri, con le teste rotonde, i grandi occhi e le labbra sottili. Nel loro aspetto arcaico, essi non avevano nulla dei romani, né dei greci, né degli etruschi, né dei normanni, né degli altri popoli conquistatori passati sulla loro terra, ma mi ricordavano le figure italiche antichissime. Pensavo che la loro vita, nelle identiche forme di oggi, si svolgeva uguale nei tempi più remoti e che tutta la storia era passata su di loro senza toccarli. Delle due Italie che vivono insieme sulla stessa terra, questa dei contadini è certamente quella più antica, che non si sa donde sia venuta, che forse c'è sempre stata. Humilemque vidimus Italiam. Questa era l'umile Italia, come appariva ai conquistatori asiatici quando sulle navi di Enea doppiavano il capo di Calabria. Che si dovrebbe scrivere una storia di questa Italia, se è possibile scrivere una storia di quello che non si svolge nel tempo, la sola storia di quello che è eterno e immutabile, una mitologia. Questa Italia si è svolta nel suo nero silenzio, come la terra, in un susseguirsi di stagioni uguali e di uguali sventure. E quello che di eterno è passato su di lei non ha lasciato traccia e non conta. Soltanto alcune volte essa si è levata per difendersi da un pericolo mortale, e queste sole, e naturalmente fallite, sono le sue guerre nazionali. La prima di esse è quella di Enea. Una storia mitologica deve avere delle fonti mitologiche, e in questo senso Virgilio è un grande storico. I conquistatori fenici, che venivano da Troia, portavano con sé tutti i valori opposti a quelli dell'antica civiltà contadina. Portavano la religione e lo Stato, e la religione dello Stato. La pietas di Enea non poteva essere capita dagli antichi italiani che vivevano nei campi con gli animali. E portavano l'esercito, le armi, gli scudi, l'araldica e la guerra. La loro religione era feroce, comportava i sacrifici umani. Sulla pira di Pallante, il pio Enea sgozza i prigionieri come sacrificio ai suoi dei dello Stato. Ma quegli italiani antichissimi, invece, erano contadini, senza religione e senza sacrificio. Quando i troiani furono in Italia, trovarono dunque una irreducibile ostilità negli abitanti della terra, derivante dalla assoluta differenza di civiltà. E difatti Enea si trovò degli alleati nelle sole popolazioni non contadine, negli Etruschi, anch'essi venuti come lui dall'Oriente, anch'essi forse come lui semitici e anch'essi retti a teocrazia militare. E con l'aiuto di questi alleati cominciò la guerra. Da un lato c'era un esercito con armi splendenti forgiate dagli dei. Dall'altro, come le descrive Virgilio, c'erano delle bande di contadini a cui nessun dio aveva dato delle armi, ma che impugnavano a propria difesa le scuri, le falci, i coltelli del loro lavoro quotidiano. Erano anch'essi dei briganti, pieni di valore e, ahimè, non potevano vincere. L'Italia fu assoggettata, quell'umile Italia per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo, Eturno e Niso di Ferute. Poi venne Roma e perfezionò la teocrazia statale e militare dei suoi fondatori troiani che, vincitori, avevano però dovuto accogliere la lingua e il costume dei vinti. e Roma si urtò anch'essa nella difesa contadina, e la lunga serie delle guerre italiche fu il più duro ostacolo al suo cammino. Anche qui gli italiani dovevano militarmente perdere, ma salvarono tuttavia la loro natura e non si mescolarono ai vincitori. Dopo questa seconda guerra nazionale, la civiltà contadina, chiusa nell'ordine romano, restò come addormentata nella sua pazienza. La civiltà feudale che, col passare di secoli, di eventi e di genti diverse seguì, non era certo una civiltà di contadini, ma tuttavia era legata alla terra, ai confini del feudo, e perciò meno contraddittoria al non stato rurale. Si può dunque capire perché gli svevi siano ancora oggi così popolari presso i contadini, che parlano di Corradino come di un loro eroe nazionale e ne piangono la morte. Certo, dopo la sua caduta, questa terra che allora fioriva entrò nella più triste rovina. La quarta guerra nazionale dei contadini è il brigantaggio. Anche qui l'umile Italia storicamente aveva torto e doveva perdere. Non aveva armi forgiate da Vulcano né cannoni come l'altra Italia, non aveva dei. Che cosa poteva fare una povera Madonna dal viso nero contro lo stato etico degli Hegeliani di Napoli? Il brigantaggio non è che un accesso di eroica follia e di ferocia disperata, un desiderio di morte e di distruzione senza speranza di vittoria. Vorrei che il mondo avesse un solo cuore, glielo strapperei, disse un giorno Caruso, uno dei più tremendi capibanda. Questo desiderio cieco di distruzione, questa volontà di annichilimento sanguinosa e suicida, cova per secoli sotto la mite pazienza della fatica quotidiana. Ogni rivolta contadina prende questa forma. Sorge da una volontà elementare di giustizia, nascendo dal nero lago del cuore. Dopo il brigantaggio, queste terre hanno ritrovato una loro funebre pace. Ma ogni tanto, in qualche paese, i contadini, che non possono trovare nessuna espressione nello Stato e nessuna difesa nelle leggi, si levano per la morte, bruciano il municipio o la caserma dei carabinieri, uccidono i signori e poi partono, rassegnati, per le prigioni. Di veri briganti, di quelli del 60, non ce n'è quasi più. Uno ne vive, mi raccontò la Giulia, qui vicino, a Missanello. È un vecchio di 90 anni, con una gran barba bianca ed è un santo. Era stato un temuto capo di bande. Ora vive nel paese, onorato dai contadini come un patriarca. Si ricorre a lui per consigli in tutti i casi difficili della vita. Mi dispiace di non essere mai potuto andare a conoscerlo. Un altro lo incontrai un giorno a Grassano. Ero nella bottega di Antonino Roselli, il mio segretario barbiere flautista, e mi facevo radere quando entrò un vecchio robusto dal viso colorito, dai grossi baffi bianchi e dal portamento fiero, dagli arditi occhi azzurri, vestito di velluto alla cacciatura. Non l'avevo mai visto in paese. Rimase, aspettando il suo turno, a fumare la pipa e mi chiese chi ero. Un esiliato, mi disse anche lui, come gli altri, quando gli ebbi risposto. A Roma non ti vogliono bene. Gli chiesi quanti anni avesse. Molti. Ero giovane al tempo dei briganti. Avevo 15 anni quando con mio fratello ammazzammo il carabiniere. Hai visto quella quercia vecchia che è sulla strada, un 200 metri prima di arrivare in paese? Fu là che lo incontrammo e voleva fermarci e fummo costretti a ucciderlo. Il corpo lo nascondemmo nel fosso, ma lo trovarono presto. Mio fratello lo presero subito e morì qualche anno dopo, nelle carceri di Napoli. Io mi nascosi in paese. Rimasi, vestito da donna, per 7 mesi, proprio qui, nella stanza che è sopra questa bottega di Antonino. Poi mi scoprirono, ma siccome ero così giovane me la cavai con 4 anni. Il vecchio brigante era contento e in pace con se stesso. Quell'antico omicidio non gli pesava sulla coscienza, lo raccontava come un'azione inevitabile e naturale. Era la guerra. «Vede quel signore che passa ora sulla strada?» mi diceva il barbiere, mostrandomelo attraverso la porta aperta. «È Don Pasquale, un proprietario. Suo nonno aveva una grossa masseria e quando vennero i briganti non volle dar nulla, né grano né bestie. I briganti allora gli bruciarono la casa in campagna. E lui, peggio, si mise coi carabinieri a far loro la posta. Allora i briganti lo presero e mandarono a dire a sua moglie che se lo rivoleva doveva pagare la taglia a 5.000 lire entro 2 giorni. La famiglia non voleva tirar fuori il danaro. Speravano di farlo liberare dai soldati. Il terzo giorno arriva alla moglie una busta. Dentro c'era un orecchio di suo marito. I briganti tagliavano le orecchie, il naso e la lingua dei signori per farsi pagare i riscatti. I soldati tagliavano la testa ai briganti che riuscivano ad acciuffare e le attaccavano su dei pali nei paesi perché servissero di esempio. Così continuava questa guerra di distruzione. Il terreno su questi monti d'argilla è tutto scavato di buche e di grotte naturali. Qui si riparavano i briganti e qui, negli alberi cavi delle foreste, nascondevano i denari delle taglie e quelli rapinati nelle case dei ricchi. Quando le bande furono disperse e i briganti tutti uccisi o imprigionati, quei tesori nascosti rimasero nella terra e nei boschi. Questo è uno dei punti dove la storia dei briganti diventa leggenda e si lega a credenze antichissime. I briganti misero dei tesori reali dove la fantasia contadina aveva sempre favoleggiato la loro esistenza. Così i briganti divennero tutt'uno con le oscure potenze sotterranee. Tante genti sono passate su queste terre, che qualcosa si trova davvero e dappertutto scavando con l'aratro. Antichi vasi, statuette e monete escono al sole sotto la vanga da qualche antica tomba. Anche Don Luigino ne possedeva, trovati in un suo campo verso il Sauro, monete corrose che non potei stabilire se fossero greche o romane e alcuni vasetti neri non figurati, di forme elegantissime. Tesori dei briganti ne vidi uno io stesso, assai modesto. L'aveva trovato per caso il falegname La Sala, che me lo mostrò. Aveva messo una sera un grosso ceppo nel focolare e al chiarore delle fiamme si era accorto di qualcosa che luccicava nel legno. Erano pochi scudi borbonici d'argento nascosti in un buco di quel vecchio tronco. Ma per i contadini queste non sono che briciole degli immensi tesori celati nelle viscere della terra. Per loro i fianchi dei monti, il fondo delle grotte, il fitto delle foreste sono pieni di oro lucente che aspetta il fortunato scopritore. Soltanto la ricerca dei tesori non va senza pericoli, perché è opera diabolica e si toccano delle potenze oscure e spaventose. È inutile frugare a caso la terra. I tesori non compaiono che a colui che deve trovarli. E per sapere dove sono, non ci sono che le ispirazioni dei sogni, se non si è avuto la fortuna di essere guidati da uno degli spiriti della terra che li custodiscono, da un monachicchio. Il tesoro appare in sogno al contadino addormentato in tutto il suo sfolgorio. Lo si vede, una catasta d'oro, e si vede il luogo preciso, là nel bosco vicino a quell'albero di ilice, con quel segno sul tronco, sotto quella gran pietra quadrata. non c'è che andare e prenderlo. Ma bisogna andare di notte. Di giorno il tesoro sfumerebbe. Bisogna andarci soli e non confidarsi con anima viva. Se sfugge una sola parola, il tesoro si perde. I pericoli sono spaventosi. Nel bosco si aggirano gli spiriti dei morti. Ben pochi animi sono così arditi da mettersi al cimento e da portarlo senza vacillare a buon fine. Un contadino di Gagliano, che abitava non lontano da casa mia, aveva visto in sogno un tesoro. Era nella foresta di Accettura, poco sotto Stigliano. Si fece coraggio e partì nella notte. Ma quando fu circondato dagli spiriti, nell'ombra nera, il cuore gli tremò nel petto. Vide fra gli alberi un lume lontano. Era un carbonaio, un uomo senza paura, come tutti i carbonai, e calabrese. Passava la notte nel bosco, vicino alle sue fosse da carbone. La tentazione, per il povero contadino atterrito, fu troppo forte. Egli non poté fare a meno di raccontare al carbonaio il suo sogno e di pregarlo di assisterlo nella ricerca. Si misero dunque insieme a cercare la pietra vista in sogno. Il contadino, un po' rinfrancato dalla compagnia, e il calabrese, pieno di coraggio e armato della sua roncola. Trovarono la pietra. Tutto era esattamente come in sogno. Per fortuna erano in due. Il masso era pesantissimo e a fatica potevano smuoverlo. Quando furono riusciti ad alzarlo, apparve una grossa buca nella terra. Il contadino si affacciò e vide nel fondo luccicare l'oro, una straordinaria quantità di oro. Le pietruzze smosse del terreno battevano cadendo sulle monete con un suono metallico che riempiva di delizia il suo cuore. Si trattava ora di calarsi nella fossa profonda e di prendere il tesoro. Ma qui al contadino mancò di nuovo il coraggio e disse al suo compagno di scendere e di porgergli il denaro che lui di sopra avrebbe messo nel suo sacco, poi l'avrebbero spartito. Il carbonaio, che non temeva né diavoli né spiriti, scese nella fossa, ma ecco, tutto quel giallo lucente si era fatto nero e opaco. Tutto l'oro, d'un tratto, s'era mutato in carbone. È molto più facile e meno delusivo che, non seguendo le indicazioni dei sogni, trovare un tesoro quando si riesce a farsene insegnare il nascondiglio e a farcisi accompagnare da uno dei piccoli esseri che conoscono i segreti della terra. I monachicchi sono gli spiriti dei bambini morti senza battesimo. Ce ne sono moltissimi qui, dove i contadini tardano molti anni a battezzare i propri figli. Quando mi chiamano a curare qualche ragazzo, magari di 10 o 12 anni, la prima domanda della madre era: «C'è pericolo che muoia? Perché allora chiamerò subito il prete per battezzarlo. Non si è ancora fatto finora, ma se dovesse morire, non sia mai». I monachicchi sono esseri piccolissimi, allegri, aerei. Corrono veloci qua e là. È il loro maggior piacere è di fare ai cristiani ogni sorta di dispetti. Fanno il solletico sotto i piedi agli uomini addormentati, tirano via le lenzuola dei letti, buttano sabbia negli occhi, rovesciano i bicchieri pieni di vino e si nascondono nelle correnti d'aria e fanno volare le carte e cadere i panni stesi in modo che si insudicino. Tolgono la sedia di sotto alle donne sedute, nascondono gli oggetti nei luoghi più impensati, fanno cagliare il latte, danno pizzicotti, tirano i capelli, pungono e fischiano come zanzare. Ma sono innocenti. I loro malanni non sono mai seri. Hanno sempre l'aspetto di un gioco e, per quanto fastidiosi, non ne nasce mai nulla di grave. Il loro carattere è una saltellante e giocosa bizzarria. E sono quasi inafferrabili. Portano in capo un cappuccio rosso, più grande di loro. E guai se lo perdono. Tutta la loro allegria sparisce ed essi non cessano di piangere e di desolarsi finché non l'abbiano ritrovato. Il solo modo di difendersi dai loro scherzi è appunto di cercare di afferrarli per il cappuccio. Se tu riesci a prenderglielo, il povero monachicchio scappucciato ti si butterà ai piedi in lacrime, scongiurandoti di restituirglielo. Ora, i monachicchi, sotto i loro estri e la loro giocondità infantile, nascondono una grande sapienza. Essi conoscono tutto quello che c'è sotterra. Sanno il luogo nascosto dei tesori. Per riavere il suo cappuccio rosso, senza cui non può vivere, il monachicchio ti prometterà di svelarti il nascondiglio di un tesoro. Ma tu non devi accontentarlo fino a che non ti abbia accompagnato. Finché il cappuccio è nelle tue mani, il monachicchio ti servirà, ma appena riavrà il suo prezioso copricapo, fuggirà con un gran balzo, facendo sberleffi e folli salti di gioia, e non manterrà la sua promessa. Questa specie di gnomi o di folletti si vedono frequentemente, ma acchiapparli è difficilissimo. La Giulia ne aveva visti, e la sua amica, la parrocola, anche molti contadini di Gagliano. Ma nessuno di loro aveva potuto afferrare il cappuccio e obbligare il monachicchio ad accompagnarli al tesoro. A Grassano c'era un giovanotto sui 20 anni, un manovale robusto, Carmelo Coiro, dalla faccia quadrata e bruciata dal sole, che veniva spesso la sera a bere un bicchiere di vino all'albergo di Prisco. Faceva l'operaio, lavorava a giornata nei campi o nei lavori stradali, ma la sua passione, il suo ideale, sarebbe stato di fare il corridore ciclista. Aveva letto delle imprese di binda e di guerra. La sua fantasia si era accesa e, su una sua vecchia bicicletta sgangherata, passava tutte le ore libere e le domeniche a correre per allenarsi sulle tremende salite, sulle giravolte delle strade attorno al paese. Si spingeva talvolta nella polvere e nel caldo fino a Matera o fino a Potenza, e davvero non gli mancava né la forza, né la pazienza, né il fiato. Voleva andare nel nord in bicicletta e diventare corridore. Quando gli dissi che se si fosse deciso avrei potuto indirizzarlo a un mio conoscente, giornalista sportivo, amico personale e biografo del grande Alfredo Binda, Carmelo credette di aver raggiunto il colmo della felicità. E lo vedevo sempre ricomparire, col viso pieno di speranza, nella cucina di Prisco. In quei giorni Carmelo lavorava con una squadra di operai a riattare la strada che porta ad Irsina, lungo il Biglioso, un torrentaccio malarico che corre tra le pietre per buttarsi più lontano dopo Grottole nel Basento. I badilanti usavano, nelle ore del maggior caldo, quando era impossibile lavorare, ritirarsi a dormire in una grotta naturale, una delle molte che bucano in quel vallone tutto il terreno, e che erano state un tempo il rifugio preferito dei briganti. Ma nella grotta c'era un monachicchio. Lo spiritello bizzarro cominciò a fare i suoi dispettucci a Carmelo e ai suoi compagni. Appena si erano appisolati, mezzi morti di fatica e di caldo, li tirava pel naso, li solleticava con delle pagliuzze, buttava dei sassi, li spruzzava con dell'acqua fredda, nascondeva le loro giacche, le loro scarpe, non li lasciava dormire, fischiava, saltellava dappertutto. Era un tormento. Gli operai lo vedevano comparire fulmineo qua e là per la grotta col suo grande cappuccio rosso e cercavano in tutti i modi di prenderlo. Ma quello era più svelto di un gatto e più furbo di una volpe. Si persuasero presto che rubargli il cappuccio era cosa impossibile. Decisero allora, per poter in qualche modo difendersi dai suoi giochi fastidiosi e prendere un po' di riposo, di lasciare a turno uno di loro di sentinella mentre gli altri dormivano, con l'incarico di tenere almeno lontano il monachicchio, se la fortuna non consentiva di afferrarlo. Tutto fu inutile. Quell'inafferrabile folletto continuava i suoi dispetti come prima, ridendo allegramente della rabbia impotente degli operai. Disperati, essi ricorsero allora all'ingegnere che dirigeva i lavori. Era un signore istruito e forse sarebbe riuscito meglio di loro a domare il monachicchio scatenato. L'ingegnere venne, accompagnato dal suo assistente, un capomastro, tutti e due armati col fucile da caccia a due canne. Al loro arrivo, il monachicchio si mise a fare sberleffi e risate dal fondo della grotta, dove tutti lo vedevano benissimo, e saltava come un capretto. L'ingegnere imbracciò il fucile che aveva caricato a palla e lasciò partire un colpo. La palla colpì il monachicchio e rimbalzò indietro verso quello che l'aveva tirata e gli sfiorò il capo con un fischio pauroso, mentre lo spiritello saltava sempre più in alto in preda a una folle gioia. L'ingegnere non tirò il secondo colpo, ma si lasciò cadere il fucile di mano, e lui, il capomastro, gli operai e Carmelo, senza aspettare altro, fuggirono terrorizzati. Da allora quei manovali si riposano all'aperto, sotto il sole, coprendosi il viso col cappello. Anche tutte le altre grotte dei briganti in quei dintorni di Irsina erano piene di monachicchi, ed essi non osarono più metterci piede. Carmelo, del resto, con quella sua aria atletica e ostinata, non era nuovo a questi strani incontri. Qualche mese prima, mi raccontò, egli tornava a notte fatta dal biglioso verso casa sua in paese. Era con lui suo zio, sergente della Guardia di Finanza. Anch'io l'avevo conosciuto, questo buon sottufficiale, quando era venuto in licenza. Zio e nipote dunque risalivano la valle lungo il sentiero ripido dove io andavo spesso in quei giorni a passeggiare e a dipingere. Era una sera d'inverno, faceva freddo, il cielo era coperto di nuvole e il buio era completo. Erano stati a pescare nel biglioso lontano sotto Irsina, si erano attardati e la notte li aveva colti. Ma lo zio aveva con sé la sua pistola automatica, una Mauser a 24 colpi. E perciò camminavano tranquilli, senza paura di cattivi incontri. Quando furono a mezza salita, dove ci sono quelle due querce vicino a una casa colonica, videro farsi loro incontro, in mezzo al sentiero, un grosso cane. Lo riconobbero. Era il cane di un contadino loro amico che abitava appunto lì, nella masseria. Il cane abbaiava minaccioso, non voleva lasciarli passare. Lo chiamarono per nome, cercarono di blandirlo, poi di minacciarlo. Non c'era verso. Quella bestia sembrava arrabbiata e si avventava con la bocca aperta per morderli. I due se la videro brutta. E poiché non c'era altro mezzo di salvarsi, lo zio tirò fuori la sua arma e lasciò partire tutta la scarica dei suoi 24 colpi. Il cane, ad ogni colpo, apriva smisuratamente la sua gran bocca rossa, ingoiava le palle ad una, come se fossero pagnotte, e ad ogni colpo cresceva di grandezza, gonfiava, diventava enorme e sempre più si faceva loro addosso furioso. I due si sentirono perduti. Ma in quel momento si ricordarono di San Rocco e della Madonna di Viggiano e, chiamandoli in soccorso, fecero un gran segno di croce. Il cane, che era ormai gigantesco, grande come una casa, si fermò di colpo. Le 24 palle nel suo stomaco esplosero ad una con fragore spaventoso, finché la bestia scoppiò come una bolla di sapone e si dileguò per l'aria. Il sentiero era libero e zio e nipote arrivarono presto a casa della madre di Carmelo. La vecchia era una strega e le avveniva spesso di conversare con le anime dei morti, di incontrare monachicchi e di intrattenersi con dei veri diavoli nel cimitero. Era una contadina magra, pulita e di buon umore. L'aria su queste terre deserte e fra queste capanne è tutta piena di spiriti, ma non sono tutti maligni e bizzarri come i monachicchi, né malvagi come i demoni. Ci sono anche degli spiriti buoni e protettori, degli angeli. Una sera, sull'imbrunire, verso la fine d'ottobre, venne da me un contadino per farsi rinnovare la medicatura di un ascesso. Io buttai in terra nel mio studio le bende e il cotone sporchi e chiamai la Giulia perché li scopasse via. La Giulia aveva, in questo, l'abitudine gaglianese di buttare le spazzature attraverso la porta in mezzo alla strada. Tutti fanno così. E ci pensano poi i maiali a far pulizia. Ma quella sera mi avvidi che la donna radunava quei rifiuti in un mucchietto e lo lasciava in casa vicino all'uscio. Le chiesi perché li conservasse. Non era certo uno scrupolo igienico. «È già calata la sera», mi rispose Giulia. «Non posso buttarli. L'angelo non sia mai si sdegnerebbe». E mi spiegò, stupita che non lo sapessi. «Al crepuscolo in ogni casa scendono dal cielo tre angeli. Uno si mette sulla porta, uno viene alla tavola e il terzo a capo del letto. Guardano la casa e la difendono. Nei lupi e negli spiriti cattivi ci possono entrare per tutta la notte. Se io buttassi le spazzature attraverso la porta, potrei buttarle sul viso dell'angelo che non si vede. E l'angelo si offenderebbe e non tornerebbe mai più. Le porterò via domattina, dopo che l'angelo sarà partito, al sorgere del sole». Elio De Capitani ha letto «Cristo si è fermato a Eboli» di Carlo Levi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, tecnico del suono Raffaele Stefani, regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.